Abbiamo il piacere di avere con noi questa sera Paolo Persichetti, che ha scritto La polizia della storia, la fabbrica delle fake news nell'affare Moro, derive a Prodi, 263 pagine. Buonasera Paolo e benvenuto a Radio Onda Rossa. Buonasera a tutti e a tutte. Paolo Persichetti è un sociologo e un ricercatore di storia che da parecchi anni ormai porta avanti una ricerca storica soprattutto sulla storia delle Brigate Rosse e poi ha fatto un lavoro molto più importante ancora sullo smontaggio delle narrazioni anche complottiste e le mistificazioni che hanno caratterizzato soprattutto la vicenda del rapimento Moro. Nel 2017 aveva già scritto Brigate Rosse dalle fabbriche alla campagna di primavera, volume 1, con Marco Clementi e Elisa Santalena. Il secondo libro forse doveva uscire quando l'8 giugno del 2021 succede qualcosa e chiedo a Paolo se ci può raccontare quello che è successo. Cito solamente un brevissimo brano di questa vicenda in cui dice: "Da quell'8 giugno sono un uomo nudo". Ecco, Paolo, perché sei un uomo nudo da quel giorno? La mattina dell'8 giugno sono stato fermato in strada dopo che avevo lasciato il bambino a scuola e da una pattuglia della Dicos che mi ha identificato e poi mi ha accompagnato a casa dove mi attendeva altro personale di tre forze di polizia, polizia di prevenzione, polizia postale e altro personale di Dicos ed è iniziata, c'era un mandato di perquisizione proveniente dalla Procura di Roma e dal pubblico ministero Gian Albamonte con indicato un reato di associazione aggressiva con finalità di terrorismo, 270 bis, e poi veniva indicato il favoreggiamento e niente, c'era una richiesta di perquisizione di tutto il materiale del mio archivio e di tutto il materiale anche informatico, di ogni tipo di supporto informatico, audio, video e iniziata una lunghissima perquisizione che è terminata a fine pomeriggio e praticamente un'espressione da un uomo nudo è legata al fatto che quel giorno mi hanno portato via il mio intero archivio di lavoro, archivio di materiale storico che è costruito con anni e anni di faticosa, paziente ricerca e oltretutto cioè in quel momento avevo in ballo anche un contratto avevo iniziato, avevo scritto il primo capitolo di un libro per un progetto editoriale che è sempre sulla vicenda Moro e tutto questo è saltato ovviamente, e più tutti gli altri cantieri che avevo in piedi. E niente, poi la vicenda è diventata sempre più surreale e contorta perché c'è stata un'altalena di imputazioni, intanto il 270 associativo è immediatamente caduto, anche perché non era proprio corroborato, cioè ero l'unico associato. È stato un cosiddetto reato passepartout, un reato di Aristello, e c'è stata un'altalena di imputazioni per ben 5 volte, insomma, c'è stato questo cambio di imputazioni e alla fine, intorno a maggio scorso, il capo di imputazione si è cristallizzato su questo possesso di materiale riservato finalizzato a un'attività di favoreggiamento, non meglio specificato. Il tutto nasce dal fatto che io avevo nel 2015, quando già lavoravamo per la realizzazione del libro che hai citato, cioè era in corso anche da poco, aveva aperto l'attività, una nuova commissione di indagine, commissione parlamentare di indagine sulla vicenda Moro, in qualche modo osservavamo il lavoro di questa commissione perché come sempre accade con le commissioni, se vengono tirati fuori documenti, ci sono nuove audizioni, insomma, quindi c'è. Per uno storico ricercatore, chi fa ricerca ovviamente attenziona questo tipo di attività. A dicembre del 2015 la commissione stava concludendo il suo primo anno di attività era arrivata la bozza di relazione che sarebbe stata poi resa pubblica meno di 48 ore dopo. E in questa bozza noi avevamo ovviamente, io e Marco e Elisa, insomma, un atteggiamento estremamente critico rispetto alle tesi portate avanti dalla Commissione, ma in modo particolare ci aveva colpito un capitoletto che riguardava una vecchia storia antica delle macchine parcheggiate in via di Cinedalvo, e siccome nel nostro progetto di lavoro ovviamente lavoravamo sulle fonti documentali ma anche sulle fonti orali, quindi avevamo un rapporto diretto con alcuni dei protagonisti di quella vicenda, quell'episodio era diventato un po' lo spunto per partire, diciamo, inviando alcune di quelle paginette, credo fossero 7-8 immagini di quella relazione, che era più di 100 pagine, 200 pagine, adesso non ricordo. L'intenzione era stata: partiamo da qui per andare a ricostruire, riempire anche dei piccoli buchi che ci sono, perché la narrazione idrologica va a insinuarsi dentro questi aspetti. Un classico rapporto con le fonti. Queste mail a giro che avevo mandato a una decina di persone, collaboratori, altri ricercatori e alcuni testimoni, arrivate nelle mani della polizia di prevenzione, che bisogna fare attenzione alle date, siamo nella fase in cui scatta quella grande operazione che poi ha portato alla riconsegna all'Italia di arrapimento, quasi, come dire, correttamente, di Cesare Battisti. All'interno di quell'attività lì c'è stata la riattivazione di un monitoraggio complessivo di tutti i fuoriusciti degli anni 70 che sono all'estero, e siccome io comunicavo con uno di questi, appunto, che aveva partecipato alla vicenda Moro, le sue mail erano state intercettate e quindi erano arrivate all'attenzione della polizia di prevenzione. Da qui parte quindi la costruzione di questo castello. Io sono ancora in attesa di capire quale sarebbe stata la mia attività di favoreggiamento, che in ogni caso il favoreggiamento è un reato che si sostanzia per dei comportamenti ben precisi. È un po' difficile favorire qualcuno che è latitante da 30 anni, oltretutto è già definitivo per la giustizia italiana. Nel caso specifico, la persona con cui era in contatto era Alvaro Iacono, ha già scontato una lunga parte della pena delle carceri in Svizzera, perché lui si è praticamente subito, essendo diventato cittadino svizzero, la giustizia svizzera ha raccolto una parte delle imputazioni italiane, l'ha processato in loco e lui ha scontato interamente la condanna. E diciamo, da questa cosa è partita questa vicenda. La vicenda, e veniamo dunque all'attualità, che in questi giorni si è concretizzata in un ultimo passaggio. Quell'enorme materiale che era stato sequestrato è stato sottoposto a duplicazione forense. Nella nostra battaglia eravamo arrivati a un certo punto a pretendere, è l'unico punto, come dire, l'unica vittoria che abbiamo ottenuto, però su un punto che è stato riconosciuto, ovvero che andava confinato l'analisi del materiale dal punto di vista tematico e temporale. Ovvero, se è vero, come recita l'imputazione, che io avrei sottratto, comunque sarei venuto in possesso di materiale riservato della commissione parlamentare di inchiesta presieduta da Giuseppe Zeroni, allora bisogna, le parole chiave della ricerca devono riguardare materiali della commissione e devono essere circoscritte al periodo di attività della commissione, cioè dal momento della sua nascita al momento della sua chiusura. Quindi è stata condotta un'analisi tecnica con questi parametri, e si tratta di materiale che io ho scaricato da fonti, cosiddette fonti aperte, praticamente un sito di uno degli appartenenti della commissione che aveva caricato sul proprio sito tutto il materiale della commissione, e il tutto fatto a partire dal maggio del 2018, cioè 3 mesi dopo la conclusione dell'attività della commissione, quando a conclusione dei lavori la commissione aveva desegretato la gran parte del materiale, salvo quello che è stato inviato alla autorità giudiziaria, e quindi era stato messo online sia su un portale della commissione sia su questo sito, e il materiale che io che loro hanno trovato riguardano appunto questi PDF e poi altro materiale che avevo raccolto in precedenza, negli anni precedenti, nel mio lavoro di ricerca all'interno degli archivi, in particolare dell'Archivio Centrale dello Stato, della Direttiva Prodi, insomma. Quindi materiale che non ha alcuna rilevanza giuridica, e questo è quanto. Di poche ore fa la comunicazione che è stato concesso il dissequestro dei 23 supporti che non contenevano nulla. Ora attendo di essere convocato per poter riprendere il possesso. Il 20 maggio ci sarà un'udienza davanti al GIP dove si discuterà il merito di questa relazione tecnica e vedremo che cosa dirà la procura e se mi verrà concesso il dato indietro anche il restante materiale e che atteggiamento avrà la procura. La Polizia della Storia contiene una mole impressionante di lavoro fatto soprattutto sulla messa in evidenza della forza spropositata che ha il potere per affermare alcune fantasie di complotto e per renderle esemplari, soprattutto per le punizioni che riguardano poi i capri espiatori che vengono trovati sulla strada contro cui sfogare poi la repressione. In questo ho trovato una contingenza, insomma, su un altro libro che parla di complotto, che è uscito da poco, che è un libro di Wuming, che è Cooper Complotto, che usa la metafora degli elettricisti. Cioè, quando dice il complottismo è la messa a terra del capitalismo, disperde in basso le energie e impedisce che le persone siano folgorate dalla consapevolezza che il sistema non funziona. Ecco, questa io l'ho pensata soprattutto quando evidenzi il meccanismo di affermazione del potere, che va a colpire direttamente sulla persona, che diventa poi esemplare quel tipo di esercizio del potere. Ecco, quello che ti volevo chiedere era se eri d'accordo su questo concetto, su questa frase del complottismo, e poi se sul singolo cosa fa la fantasia del complotto a chi entra in contatto con essa e magari cerca di demistificarla. Allora, sì, nel libro ci sono diversi capitoli, insomma, diverse pagine che affrontano le varie teorie, è una materia complessa. Non c'è stato ancora in Italia un lavoro di genealogia del complottismo degli anni 70, intendo, eh. In alcuni passaggi del libro così getto così delle tracce. No? Per tracciare appunto un percorso cronologico, no? Un discorso che già noi troviamo nei giornali degli anni 70, già in presa diretta, che comincia a sostanziarsi, a strutturarsi negli anni 80, in modo forte a partire dalla metà degli anni 80, e io ricostruisco più o meno le date, perché c'è a mio avviso un momento forte che riguarda il 9 maggio 84, cioè poco dopo la conclusione dei lavori della prima commissione Moro, che era, ricordo, stata votata quasi all'unanimità dalle forze politiche, ma in particolare è stata votata anche dal Partito Comunista che l'aveva condivisa. Improvvisamente, a distanza di pochi mesi, il PC cambia linea e presenta sia alla Camera che al Senato una mozione. E dove si indicano una serie di punti che, se voi andate a guardare, sono gli stessi che in modo martellante ancora oggi la propaganda dietrologica e complottista rilancia. La ragione di questa svolta in termini errati, di questa decisione, dell'avvio, no? Perché poi l'effetto politico, vista la forza dell'egemonia culturale che il PC aveva ancora quegli anni, è quella di veder partire, di mettere, come dire, di attivare il fuoco dei propri intellettuali, del proprio apparato culturale, ideologico, per cui, guarda caso, cominciano a uscire una serie di lavori editoriali che vanno a supportare il pensiero ideologico, una serie di concetti come doppio stato, stato parallelo, i poteri invisibili, nascono proprio a metà degli anni Ottanta. È in quel momento che si strutturano queste categorie che poi avranno un enorme successo, un'enorme diffusione nei decenni successivi. Perché nasce questo? Allora, nello specifico nasce perché il Partito Comunista ha un grosso problema, uno scheletro armato, deve in qualche modo trovare una giustificazione al fallimento della propria strategia, al fallimento della strategia del compromesso storico e anche all'errore enorme fatto nel corso del sequestro, ovvero all'abbandono della figura di Moro. Lì si entra in una contraddizione profonda, che nel momento in cui si dice che era la figura chiave del progetto politico, non si comprende allora perché il PC in quel frangente non ha fatto di tutto per liberare l'ostaggio. In realtà il Partito Comunista va all'esatto opposto, fa di tutto per bloccare ogni tipo di tentativo contraddittorio, debole, appena accennato, che viene in particolare dalla Craxi, dal Partito Socialista, e di ostacolare in quei momenti in cui sembra che nella DC c'è, no? Quando Cossiga voleva coinvolgere la Croce Rossa Internazionale, quando Zacca, adesso entro nei dettagli, quando Zacca Agnini va a sentire Craxi per capire qual era la sua proposta, insomma, c'è un atteggiamento del principio lentissimo di controllo. Ecco, il problema loro è che devono quadrare il cerchio, le cose non tornano e quindi in qualche modo devono costruire una narrazione consolatoria e individuare un alibi e dei responsabili di sostituzione. E quindi la dietrologia nasce appunto come discorso politico del Partito Comunista. Dopodiché, e evolve, e di parte della sinistra democristiana, cioè degli stessi uomini di Moro, che noi sappiamo hanno fatto pochissimo in quel frangente per attivarsi in favore del loro punto di riferimento. Tutto non si ferma qui, in realtà col mutare dell'Italia, con la fine della cosiddetta fine delle energie, con il crollo degli apparati ideologici del Novecento, cambia natura, c'è un pensiero magico che è ritornato in auge, e quindi anche questo tipo di ideologia si è nutrita di queste nuove tendenze, ha perso quelle matrici ideologiche del Novecento e è diventato qualcosa d'altro. E che cosa è diventato? È diventato quello che io definisco una specie di malattia del pensiero, cioè un'incapacità ontologica di leggere il presente, perché poi il dramma più grande è proprio questo: il complottismo o la ideologia producono un indebolimento, un impoverimento delle categorie interpretative della realtà, che porta anche a di deviazione. E l'altro aspetto fondamentale è che questi discorsi sono alla fine funzionali assolutamente al potere, sono funzionali all'ordine costituito, sono funzionali al rafforzo del capitalismo. Ora, se nel momento in cui ogni qualvolta c'è le polemiche sui black bloc, le polemiche ogni qualvolta c'è un corteo e accadono gli scontri e c'è questa disco rigato, questa litania degli infiltrati, quando in realtà sappiamo che le caratteristiche delle mobilitazioni attuali vedono tendenze alla riot, componenti sociali che non sono più inquadrati ideologicamente, non sono i militanti di una volta, no? Quindi c'è questa preponderanza veramente al tumulto, no? Questa è la natura sociologica di questi fenomeni, che vengono invece con il vizio del complottismo letti come, ecco lì, gli infiltrati, i manipolatori, sono messi dentro, per esempio. Questo è un piccolo esempio, no? di perdita di incapacità della lettura del sociale, ma al tempo stesso di messa in discussione della legittimità di ogni forma di protesta, di rivolta, perché il problema di fondo, no? è l'idea che dei gruppi sociali, siano essi grandi o piccoli, non abbiano l'autonomia, l'indipendenza, la capacità in proprio di ribellarsi, e che se questo avviene, avviene sempre per conto di qualcuno. A proposito sempre di questo di questo lavoro che hai fatto, a me è interessato molto anche vedere come poi sei riuscito a trasformare e a ricostruire la complessità di vicende e anche la complessità delle identità, come cambiano. È interessante il discorso, ad esempio, del lavoro antropologico che si può dedurre sul gruppo dirigente del Partito Comunista, come dicevi prima, insomma, sulla difficoltà di negoziare con Moro, perché era difficile negoziare con Moro. E nel tuo saggio, in cui appunto storia e memoria, ma anche le dinamiche dei media, ci sono tanti temi che vengono trattati anche trasversalmente, tante tecniche narrative che si accavallano, e a me ha ricordato tecniche di indagine storica e sociologica simili a quelle che usava Ginsburg con Storia Notturna o addirittura con I Benandanti. Insomma, dà conto sia della struttura che della forma che poi ha la fabbrica delle fake news. Ecco, volevo chiederti come è stato poi il processo proprio di scrittura e soprattutto alla luce del sequestro del materiale. Ringrazio del paragone. Insomma, non credo umilmente resto al mio posto. Come è andata? In realtà è andata, io non avevo niente, non avevo più nulla, non avevo più il mio materiale, non avevo più la quantità enorme di cantieri, perché insomma ho una tendenza un po' sempre nella mente a creare, a costruire progetti, faccio questo, faccio quello, si potrebbe fare questo, insomma, dentro il mio computer è un casino, e di tutto questo non ce l'avevo più. Il libro è strutturato in tre parti. Una prima parte che è la narrazione di questa inchiesta, di questa vicenda, di questa battaglia, manca soltanto appunto queste ultime novità che ho raccontato prima, e poi ci sono delle note, chiamate così, sulla vicenda Moro, perché riguardano, ci sono degli articoli già editi in passato, usciti su giornali, su riviste o sul mio blog, insorgenze.net, che ho ovviamente aggiornato, e poi ci sono altri lavori, quindi è un miscuglio di materiali editi ma aggiornati ovviamente e materiali inediti. E successivamente affronto nella seconda parte la narrazione del complotto, e quindi nell'ultima parte trago un bilancio che potete immaginare molto severo dell'attività della commissione Moro 2. E come ho lavorato? Ho messo mano a del materiale che era appunto ho chiesto ad amici di rimandarmi i testi, ho cercato negli archivi le cose pubblicate, o per fortuna che c'è il blog, riutilizzato il materiale che trovavo nel blog, e quindi poi ho iniziato un lavoro di rivisitazione, di rilettura, di aggiornamento alla luce delle conoscenze nuove, quindi ho fatto un largo uso anche della memoria, e è venuto fuori questo lavoro. Io spero che non sia noioso, che non sia pesante, insomma. Sono 7 capitoli, tutti molto puntuali. La penultima domanda che ti vorrei fare è relativa a un ulteriore paradosso, nel senso che in questo periodo stiamo vedendo che alcuni storici, divulgatori di storia, sono delle star vere e proprie ormai, apprezzate dalla rete, hanno ampi spazi, hanno pagine di fan, come penso al fenomeno Barbero, insomma. E però contemporaneamente, nello stesso tempo periodo storico in cui stiamo vivendo, succede che poi appunto un lavoro storico di ricerca e di inchiesta storica possa essere messa sotto sorveglianza. Che periodo storico è questo in cui la storia può essere processata da una parte e invece idolatrata dall'altra? Quello che mi è accaduto, ma già lo sapevamo, gli anni 70, nonostante il tempo trascorso, che è un tempo sufficiente per iniziare a fare appunto un lavoro storico. Poi ricordiamoci un fatto importante: da alcuni anni c'è stata quello che io chiamo una democratizzazione dell'accesso alle fonti. La direttiva Prodi, la direttiva Renzi hanno di fatto consentito, viste le polemiche che c'erano su tutta la vicenda della lotta armata, della vicenda del sequestro Moro in particolare, c'è stata questa scelta di accelerare anche l'accesso alla documentazione, anche se questo poi è avvenuto in modo molto caotico, le collezioni, i fondi che sono stati versati, anche non in modo sequenziale, ma anche ci sono dei buchi, però al netto di questi difetti, di queste mancanze, di questa incompletezza, il dato di fatto è che la mole di materiale, di documentazione depositata è enorme, è importante. La vicenda Moro in particolare è una delle vicende dal punto di vista documentale più documentata che esiste nella storia d'Italia. Gli anni 70 sono un terreno ancora di un campo di lotta interpretativa, e c'è una fortissima, abbiamo assistito negli ultimi anni a modificazione, no, della costituzione materiale di questo paese. Praticamente, stando qui, cioè, gli ultimi discorsi del Presidente della Repubblica, in Italia è cambiato il mito fondatore della Repubblica. Il mito fondatore della Repubblica non è più il 25 aprile, ma il 9 maggio. Il 9 maggio è la giornata della memoria di terrorismo, sappiamo la storia del 9 maggio, in quella data sono stati raccolti i fenomeni racchiusi nel termine stragismo, quindi tutta la vicenda delle stragi di Stato, le stragi come Piazza Fontana, Brescia, Italicus, e tutto quel fenomeno lì accorpato insieme alla vicenda dell'insorgenza, di quella grande insorgenza sociale che ha visto anche la lotta armata, e che in quella che è la semplificazione mediatica e anche visiva, insomma, via di seguito, viene racchiusa attorno a questa icona che è l'icona della vicenda Moro e della Stella 5 punte. Dietro, diciamo, io dico sempre, quello è l'albero che nasconde un'immensa foresta. E noi dovremmo avere la capacità di ridare vita, no, facendo storia, a quell'immensa foresta, se no non si capisce nemmeno l'albero. Dall'altra parte c'è un problema che investe anche chi fa storia. Ora, nello specifico, il sottoscritto, pur avendo, io non ho tendenza a farlo, non sono una persona che mette avanti i titoli, però insomma, nella mia vicenda personale, quando sono andato via dall'Italia nel 91, ho ripreso gli studi in Francia, sono arrivato anche a insegnare all'università, facevo ricerca, stavo completando il dottorato e poi sono stato estradato e la detenzione in Italia è stata funzionale alla distruzione del percorso che avevo fatto in Francia, mi è stato impedito di completare il dottorato e di fatto qui in Italia resto, sono ritornato ad essere semplicemente un ex terrorista, anzi con le inchieste tentano di aggiornare, no, quella qualificazione. E non ce ne esce, non c'è modo di uscirne e quindi c'è una delegittimazione anche del soggetto che in questo caso fa la ricerca storica, a cui non viene riconosciuto. Se io faccio ricerca storica sto facendo favoreggiamento, sto facendo propaganda e qui attiro l'attenzione sul fatto. Sono diversi anni, oltre 10 anni, che a febbraio viene pubblicato una relazione dei servizi sullo stato della sicurezza in Italia e periodicamente, per quanto attiene il capitoletto che riguarda l'antagonismo e l'inversione di sinistra, c'è un passaggio che riguarda quella che loro chiamano attività di propaganda, ovvero il fatto ci siano pubblicazioni e lavori, comunque attività editoriali sugli anni 70, che questo organo di polizia interpretano come un'attività di proselitismo, di divulgazione di propaganda ideologica, delle ideologie dell'ottarismo, non come un normale lavoro che in una società plurale no? Vede di reinterpretazione di tornare anche, no, di archeologia del passato, anche del passato recente. Allora, senti, no, ti faccio l'ultimissima domanda, che è la domanda che facciamo generalmente agli ospiti, alle ospiti di Tabula Rasa, che è se ci puoi consigliare un libro che stai leggendo o che dobbiamo assolutamente leggere. 1982 è stato l'anno delle torture in Italia, l'anno argentino, e anni fa, sensibile alle foglie, no, nell'ambito del progetto Memoria, aveva tirato fuori un libro eccellente che a tutt'oggi resta l'opera di riferimento, cioè Le torture affiorate. E quest'anno, in occasione del ventennale, hanno prodotto una nuova edizione con un aggiornamento, un capitolo nuovo, nel quale sono raccolte diversi contributi sulle novità che ci sono state nelle ricerche riguardo alla vicenda delle torture. Paolo, io ti ringrazio, noi di Tabula Rasa ti ringraziamo e ti facciamo i complimenti soprattutto per questa impresa alla fine di essere riuscito comunque a portare in libreria La Polizia della Storia, la fabbrica delle fake news nell'Affer Moro. È uscito da pochissimi giorni per Derive a Prodi, 263 pagine. Noi ringraziamo nuovamente di tutto cuore Paolo Persichetti per essere stato qui con noi a Tabula Rasa. Grazie Paolo. E io ringrazio voi, fate una trasmissione bellissima, importantissima, grazie. Grazie a te Paolo, buona serata.